Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Giulio Caperdoni, anche questa settimana a tenervi compagnia sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni dalle 19 alle 20, tutta l'estate. Non ci sarà sospensione quest'estate. Magari di tanto in tanto sentirete replicata la settimana precedente, come già è avvenuto, però staremo tutta l'estate assieme. L'indirizzo di mail è giulio@rockfm.com, il nostro sito, quello che è il nostro spazio, myspace.com/eclettica, ma ovviamente vi ricordo anche radiorockfm.com. Non c'è dubbio che ci sia un mondo invisibile. Il problema è: quanto dista dal centro storico e qual è l'orario di chiusura? Di avvenimenti inspiegabili ne succedono di continuo. Un uomo vede gli spiriti, un altro sente delle voci, un terzo si sveglia e si trova a correre a San Siro. Quanti di noi, una volta o l'altra, non hanno sentito una mano gelida sulla nuca mentre erano soli in casa? Io no, grazie a Dio, ma ad altri è successo. Cosa c'è dietro queste esperienze? O anche davanti, già che ci siamo. È vero che certe persone possono predire il futuro o comunicare coi defunti? Sarà possibile, dopo la morte, fare la doccia? Per fortuna, queste domande trovano una risposta in un libro di prossima pubblicazione, Boo, del dottor Osgood Malford Twelge, noto parapsicologo e professore di ectoplasma alla Columbia University. Il dottor Twelge ha scritto un'eccellente storia degli avvenimenti soprannaturali che copre l'intera gamma dei fenomeni medianici, dalla telepatia all'esperienza bizzarra di due fratelli che abitavano in parti opposte del globo, uno dei quali ha fatto una volta il bagno, mentre l'altro diventava improvvisamente pulito. Quel che segue non è che una selezione dei casi più famosi riportati dal dottor Twelge, insieme ai suoi commenti. Questo era l'incipit di Breve introduzione ai fenomeni medianici, da citarsi addosso, di Woody Allen. The boys pass and they say, How did I beat you? You're too fast. Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this place? You think that's air you're breathing now? Il titolo del brano che ha aperto Eclettica dell'intera settimana è Cherries in the Snow, che abbiamo iniziato a conoscere da settimana scorsa, un album uscito alla fine di giugno per Friendly Fire da parte degli Elk City. New Believers è il titolo di questo album. Si è poi proseguito con gli italiani pugliesi trapiantati a Milano di nome Bordeaux con il pezzo dal titolo Inganni, ed ora i genovesi Ex Otago. Sottolineo genovesi perché è la prima volta che li trasmisi ormai tanto tempo fa. Li definì del nord-est, fuorviato dall'appartenenza all'etichetta Riot Maker, che pensavo avesse una collocazione geografica, evidentemente sbagliandomi. Sempre per Riot Maker, gli Ex Otago sono usciti con Tanti Saluti, un album divertente ma anche piacevole da ascoltare, divertente nei testi ma piacevole nella musica. Noi ci ascoltiamo Pertini Is a Genius, Mirinzini Is Not Famous. Thank you. per tiri you know the situation. Together we see another fiction. Il 16 marzo 1882 il signor J.C. Dubbs si svegliò in piena notte e vide suo fratello Amos, che era morto da 14 anni, seduto ai piedi del letto che spennava un pollo. Dubbs chiese al fratello cosa stesse facendo e suo fratello disse di non preoccuparsi, che lui era morto ed era venuto solo per il weekend. Dubbs chiese a suo fratello com'era l'altro mondo e suo fratello disse che non era diverso da Cleveland. Disse che era ritornato per trasmettergli un messaggio, e cioè che è un grave errore portare un completo blu scuro con dei calzini arlecchino. A questo punto entrò la domestica di Dubbs e vide Dubbs discorrere con una foschia lattiginosa e informe che, lei disse, le ricordava Amos Dubbs, ma un po' più bello. Alla fine il fantasma chiese a Dubbs di accompagnarlo in un'aria del Faust che i due cantarono con gran fervore. Al sorgere dell'alba il fantasma scomparve attraverso il muro. Dubbs, nel tentativo di seguirlo, si ruppe il setto nasale. Questo sembra un caso classico di apparizione e, se dobbiamo credere a Dubbs, il fantasma ritornò e fece levitare la signora Dubbs, che sorvolò la tavola da pranzo per 20 minuti prima di cadere nella zuppiera. È interessante osservare come gli spiriti tendono a essere dispettosi, ciò che A.F. Child, il mistico inglese, attribuisce al complesso di inferiorità di cui soffrono per essere morti. Le apparizioni sono spesso associate a individui morti in circostanze insolite. Amos Dubbs, per esempio, trovò una morte singolare quando un contadino, per sbaglio, lo piantò nel terreno insieme alle rape. Questo era ancora breve introduzione ai fenomeni medianici, da Citarsi addosso, di Woody Allen. I had to find you.